Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Secondo me Ciccio di Cefalù veste anche Brignoli. Milan. Per Manera, ascolta, guarda che è Cavaillon, là in provincia di Verona, maiga mia l'accento che te fetti, il tuo le Trevisan. Finalmente le 9. Buongiorno Veronica. Sì, lo so, c'è anche quell'altri due. E vabbè, pazienza. Buongiorno cari ascoltatori, scusate, uno degli intrusi qui ai Funamboli. Sono Alessandro Milan, tra poco arriva anche Leonardo Manera. Vabbè, ci siamo anche noi. Vi dobbiamo Sono le 9:10 minuti. Vi sopporteremo ancora. Oh, che buongiorno. Bella voce. Buongiorno, ti ho fatto vivere momenti di vero terrore. Ragazzi, dovrei mandare in onda il messaggio non vocale, guarda. Non lo faccio, che sabato mi ha mandato Veronica, o venerdì, adesso non ricordo, non con la azzardare. Febbre e con una voce che neanche veramente... È stata una nota vocale su WhatsApp in piena notte dicendo sì. Okay, probabilmente lunedì vai in onda, e invece vagolo. Sentite qua, è qua, è con noi, è con noi. Hai sentito che usignolo? Hai visto? Che usignolo. Ieri ho sentito il terrore correre sul filo quando mi è arrivato il tuo messaggio. Ehi, come stai? Come stai? Mi formavo, ho detto giù. Certo, ho detto guarda il terrore che domani arriva un viados. Ho detto peggioriamo la situazione, capito? No, allora, assolutamente no. Grazie al cielo non è andata così. Tu come stai? Bene, tutto bene. Alle 9:11 minuti siamo qui. Allora, intanto cominciamo con le cose serie. Oggi è un giorno importante, questo lo dico io prima di te, perché è l'anniversario della scomparsa. È passato un anno da quando purtroppo abbiamo perso Francesca Del Rosso, Wondi, che per te era la tua dolce metà e per tutti noi è stata una giornalista, una scrittrice, un'autrice che ci ha dato tante cose, tanta materia viva su cui riflettere tutti i giorni. È passato un anno, ma noi non ce la dimentichiamo e ce la portiamo nel cuore sempre. Grazie, ti ringrazio Veronica, sei molto tenera. Nulla da ringraziare, dico la verità a nome di tutti. Allora, dai, eccoci qua, sono le 9:11 minuti. È successo anche un miracolo invece ieri. No, chiamiamolo col suo nome. No, il vero miracolo, so già, spero, dove vorrei arrivare, il vero miracolo non è accaduto ieri, ma ieri è successo un mezzo miracolo. Cross di Borini, ecco, è questo, era questo il mezzo miracolo. Tutto me lo chiedo. No, ma il vero miracolo accadrà tra poco, si chiama così, attenta, remuntada. Sì, ecco. Hai mai adesso sentito parlare? Oh, questi gli dai è un dito. È partita la remontata. Manco gli hai dato il dito che si prendono il braccio. Allora, signori, intanto c'è da dire: miracolo a Milano, da dove è venuto? Da San Severino Marche. Il miracolo, ecco. È dovuto venire dalla provincia di Macerata. Un signore si è rimboccato le maniche, ha detto: poverini, come stanno combinati lì? È venuto e vi ha tirato su un attimo. Da qui alla remontata. Remontada, signora, abbiamo recuperato 2 punti all'Inter, al Napoli, alla Juve, alla Roma. La remontada del Milan è partita. Facciamo meno. Che dobbiamo fare? Dai, sono le 9:12 minuti. Allora, qui con Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia e lì Alessandro Chiappini, credo. Sì, vado sì, a intuito. Se ne sta qui con un ridente viso da inizio settimana. Sì. Però, oggi abbiamo davvero tanti funamboli che si succederanno, tante tematiche da affrontare. E allora, Veronica, vogliamo partire con la prima? One, e two, e one, eccoci. Two, three, vai! Allora, la prima è una signora che dovrebbe essere felice perché è stata assunta dopo aver vinto un concorso in Italia. Ne abbiamo parlato di recente. Oh, succede ogni tanto, si vince un concorso per e si viene assunta. Abbiamo una buona notizia, logica, coerente. Esatto, la salutiamo, è Gloria Bonanno, buongiorno e benvenuta. Grazie. Buongiorno da a voi. Messina. Concorso, allora lei è entrata in ruolo il 2 novembre, credo, no? Il 2 novembre, sì, il giorno della commemorazione dei defunti. va bene. Perfetto. Il bando di quando era, della scorsa estate, aveva vinto? No, qualche anno prima, direi. Che cioè? Intende per qualche anno prima? Anno 2000. Ah, 2000. 17 anni fa? 17 anni fa. 17 anni fa, sì. Ah. Hanno impiegato un po' di tempo. La burocrazia, tante volte. La burocrazia, chiamiamola così. Le carte. La burocrazia. No, ovviamente stiamo un po' sorridendo e scherzando, sì. Ma è sì. Una delle quelle storie okay. paradossali tipiche che ogni tanto raccontiamo. Ma com'è possibile vincere un concorso nel 2000 e essere assunti nel 2017? Sì, è possibile. Credo sia possibile solo in Regione Sicilia. Io ho partecipato a un concorso nel 2000 per restauratore. Perché chiaramente la Regione Sicilia aveva l'esigenza di assumere dei tecnici. E, dopodiché nel 2005 viene pubblicata la graduatoria provvisoria. Uh-huh. Io mi ritrovo al primo posto su 14.000 candidati. Ah, quindi anche andata benissimo. E allora insomma lì già i festeggiamenti. Ma non sapevo cosa mi aspettava. Ma avevano dato un tempo? Le avevano detto più o meno quando doveva essere assunta? Beh, i tempi in genere sono quelli, avremmo dovuto aspettare la graduatoria definitiva e poi ci sarebbe stata l'assunzione. Uh-huh. Nel 2008 però questo non era ancora avvenuto e io allora mi rimbocco le maniche e inizio la battaglia del secolo. Accidenti, perché 8 anni. Ma senta, ma qual è la motivazione che hanno addotto per dire non ci sono i soldi, non c'è la posizione? Allora, inizialmente hanno detto che alla fine loro non avevano proprio questa esigenza di restauratori, di tecnici. La cosa è alquanto bizzarra perché siamo in una regione che ha un patrimonio incredibile. E allora che hanno fatto il concorso a fare? Cioè fanno un concorso per un ruolo? Evidentemente che poi è stato fatto in un momento politico particolare che prevedeva l'assunzione di diverse figure professionali e infatti alcune di esse sono state subito assunte, gli storici dell'arte e altri che adesso non ricordo, ho perso un po' il conto. Sì. I restauratori evidentemente insomma è stato messo così, accantonato, messo in soffitta. E si sono appellati appunto al fatto che non avessero più l'esigenza, non ci fosse più questa esigenza di tecnici. Poi è sopraggiunto anche il blocco delle assunzioni, che certo. non avrebbe dovuto come dire, influenzare l'assunzione, perché è arrivato dopo il blocco certo. delle assunzioni rispetto a quando lei aveva vinto il concorso, quindi teoricamente non dovevano incidere le due cose, no, non sarebbero no. dovute essere in relazione. Beh, certo. nel frattempo io avevo già iniziato l'azione legale, abbiamo avuto tutte sentenze positive, però c'era sempre un ricorso da parte della Regione Sicilia. E anche, ma che è incredibile, cioè voglio dire, una regione Sicilia che ha fatto questo concorso, poi fa i ricorsi contro le persone che vogliono sì. legittimamente entrare in ruolo, visto che l'hanno vinto, lei è arrivata prima tra 14.000. Sì. Tra l'altro è una vicenda che abbiamo raccontato di recente, Veronica, ti ricordi? Sono sì. decine di migliaia gli italiani che hanno vinto concorsi e poi non sono mai entrati in ruolo. Ce ne eravamo sì, occupati anche rispetto alla regione Sicilia proprio, sì. moltissimi sì, ristoratori. Ma, sì. Diciamo che poi bisogna avere molta determinazione e poi c'è un aspetto da non sottovalutare che è quello poi su cui loro giocano, cioè risorse economiche, oltre a quelle naturalmente bisogna essere molto pazienti, determinati, mi hanno scoraggiato da più parti in questi anni. Perché naturalmente sembrava una battaglia persa. Beh, anche perché io però 17... ho sempre creduto che fosse nei miei diritti l'assunzione e sono andata avanti e ho avuto ragione. Ma in realtà qualora lei non avesse ricorso, Gloria sarebbe andata a finire così? Sì, sì, sì, certamente sarebbe, perché altri concorsi dello stesso bando sono stati annullati. Mm. Il mio non è stato possibile annullarlo perché appunto c'era la mia... ricorso. C'era un processo, sì, esattamente. Diciamo, adesso... sarebbe rimasta sospesa, funambola vita, se si potrebbe dire. Per sempre, sì, per certamente sempre. Io poi in questi anni, alla fine, io guardo il bicchiere mezzo pieno, ho fatto di tutto e di più. Immagino, perché 17 anni sono tanti, quindi sì, avrà sì. fatto anche degli altri lavori. Forse è stato anche un bene, mettiamolo tra virgolette, perché probabilmente se fossi stata assunta allora sarei rimasta lì... negli uffici della regione, invece ho girato praticamente il mondo, ho fatto di tutto, sempre rigorosamente però la restauratrice, che è quello che sono. Ecco, adesso serve il suo ruolo alla Regione Sicilia. Ecco, adesso qui si apre un altro capitolo, perché la Regione Sicilia ha eliminato i ruoli tecnici, quindi io di fatto sono adesso per loro un istruttore direttivo, ma sto combattendo anche questa battaglia, perché io sono un restauratore, insieme ai miei tre colleghi che sono con me al centro di restauro della Sicilia, qui questo è un altro paradosso, il centro restauro Sicilia non prevede restauratori. Ma col patrimonio culturale artistico che c'è in Sicilia. È questo, non hanno necessità, non servono i restauratori? No, di fatto io svolgo l'attività di restauratore, però per loro l'inquadramento, per così dire, non è da restauratore. Io lo sono anche secondo la legge, lo sono, lo dice anche il ministero, per cui su questo non c'è dubbio, ma questo fa parte delle stranezze della mia amatissima regione. Decisamente stranezze. Scusi Gloria, ci mandano un messaggio, le chiedo se la domanda, temo che la risposta sia scontata, ma io glielo chiedo, le hanno per caso riconosciuto qualche genere di rimborso per questi mancati anni di assunzione? Allora, naturalmente hanno, sì, hanno liquidato le spese legali, perché è stato un impegno economico non indifferente. Dovranno, sì, risarcirmi questi anni che non ho, nei quali non ero in ruolo alla Regione Sicilia. No, ma non ho ancora però ricevuto nulla. Non ha ricevuto nulla. Immagino. Beh, intanto ha ricevuto, dopo una leggera battaglia legale di durata 17 anni, un posto di lavoro. Ecco, certo, naturalmente adesso i miei colleghi beneficeranno di queste. Domani proprio ci sarà la sentenza per loro. Sono 40. Altri 40. Quindi sempre 40. Regione Sicilia. E dopo questo precedente si suppone che anche per loro, no? Per loro sì, sembra quasi scontata. Certo, incrociamo le dita perché nulla è scontato qui. Però speriamo. Sì, naturalmente per coloro che poi si sono accodati a me... ci sarà questa possibilità, non per tutti i vincitori, chiaramente. Allora, allora facciamo così, visto che tanto credo, come succede spesso qui a Funambole, anticipiamo magari delle tematiche, poi ci troviamo domani sui giornali o dopodomani, che ci saranno 40. Noi siamo dei precursori, Gloria, tocchiamo una notizia e il giorno dopo ci aprono Corriere, tutti quanti. Adesso, non montiamoci la testa. Beh. Comunque, Gloria Buonanno potrebbe essere stata un precursore, insomma, di questa sentenza che arriverà domani, riguarderà più persone. Sì. Noi la ringraziamo, ecco, per aver raccontato questa storia. Concorsista, ha vinto, non so se concorsista no, sembra quasi un insulto, ma non lo è, insomma, ha vinto un concorso nel 2000, tra l'altro prima tra 14.000, quindi davvero complimenti. Complimenti. Però il posto di lavoro è arrivato solo nel 2017. Indubbiamente anche una donna molto paziente, quindi le facciamo doppiamente i complimenti. Però, cara Veronica, ormai siamo diventati come le radio degli anni 70. Scusate, potete passare potete passare Never Be The Same di Camila Cabello? No, adesso. No. Allora, cara ascoltatore, ascoltatrice, non lo so. Sì, ogni tanto abbiamo dei passaggi musicali come adesso per introdurre il prossimo funambolo. Però ecco, se riusciamo a non essere proprio come Radio Freccia, chiaramente il messaggio subliminale è quello: potete gentilmente mettere un po' di musica e smettere di parlare? Esatto. Dovremmo, purtroppo, che dobbiamo fare? No, adesso con tutto il rispetto, ma quando mi chiederanno insomma che fa il DJ, no, facciamo ancora i giornalisti, però allora. raccontiamo notizie come questa. Guarda che questa ci ha molto molto colpito, questa sì, tanto affondiamo un po' nel classico di De Gregori. No, perché poi mi tocca cantare, no, anche stamattina con la senza voce. No, anche oggi senza voce, che poi è lunedì. No, vabbè, sto buona, va. Allora, non cantare Rimmel, dai. Allora, no, ha molto colpito non solo noi, ha colpito anche Massimo Garmellini, per esempio, ha scritto buongiorno, no, dico sempre buongiorno perché mi è rimasto il buongiorno non sulla stampa. Non ce la fai a questo passaggio, caffè, purtroppo è passato, ci sono al Corriere, lo so. Sai che purtroppo al governo non c'è più la Democrazia Cristiana un po'? No, te Demita questa cosa? A Demita, no, non è premier? No, Demita ogni tanto... Demita è ancora un pochino sindaco, premier, però lo vedi, però no, la Democrazia Cristiana è un pochino che non è più, non è più al potere. Vabbè. Aspetta un attimo che magari ci ritorna. Allora, Massimo Garmellini anche ne ha parlato sul suo caffè, sulla prima pagina del Corriere della Sera. È una storia che ha molto colpito, una storia di grande tenacia e grande forza. Noi le raccontiamo sempre senza, non vogliamo scadere per carità in pietismi e non lo faremo, ma vogliamo salutare un chirurgo, si chiama Marco Dolfin. buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Ortopedico al San Giovanni Bosco di Torino, che a causa di un incidente è rimasto, ci descriva lei qual è la sua condizione sanitaria, non vorrei dire cose sbagliate, lei le conosce molto meglio da dottore. Io allora da qualche anno vivo in carrozzina per colpa di una paraplegia, appunto in seguito a questo incidente in moto ho avuto una vertebra fratturata. Mm-hmm. E di lì insomma tutto il percorso, ecco, riabilitativo che mi ha poi riportato in condizioni attuali. Le posso chiedere quanti anni ha? Adesso sono 36 e ho avuto l'incidente che avevo 30 anni. E tra l'altro era appena diventato chirurgo, cioè aveva appena avuto l'abilitazione a poter operare, andare in sala operatoria? Sì, praticamente avevo finito la specialità in ortopedia da qualche mese, mi ero appena sposato, quindi ero appena rientrato dal viaggio di nozze e avevo vinto quel concorso lì e iniziato a lavorare più o meno da 2 settimane, ecco, poi il futuro è stato un po' cambiato, ecco. Beh, è stato un po' cambiato, sì, certamente la sua vita sì, sì. Inizialmente poi c'è stato un anno credo di riabilitazione che è stato un anno molto duro, non solo fisicamente, immagino anche... È stato un anno di riabilitazione a tutto spessore, a 360 gradi, perché si trattava di capire nella nuova condizione, ecco, tutto quello che avrei potuto riprendere a fare, quindi sia da un punto di vista lavorativo, sportivo, di autonomia anche a livello familiare, insomma tutta una serie di aspetti che andavano rivalutati. E durante questo anno appunto anche più sul versante psicologico, quindi anche sul versante della motivazione, a me è servito molto conoscere altre storie, ecco. Mi sono imbattuto quasi per caso nella storia di un chirurgo di Rieti, Paolo Anibaldi, che aveva avuto già il mio stesso problema e aveva trovato una sua soluzione. Ci siamo poi incontrati in modo di nuovo un po' fortuito e diciamo anche il fatto di conoscere la storia di qualcuno che ce l'aveva fatta, che aveva trovato una sua strada, ecco, mi ha dato il punto di partenza. Perché Marco, la storia sarebbe quella che appunto se lei avesse deciso di lavorare, operare unicamente in carrozzina, avrebbe potuto fare unicamente interventi a mani e piedi, mi corregga se sbaglio? Diciamo tecnicamente sì, ci sono tanti chirurghi che operano anche altri distretti, però a me non andava di vincolare i miei colleghi abituati comunque ad altri tipi di, certo, di soluzioni solo per la mia nuova condizione. È per questo che è stato costruito tecnicamente, si chiama un esoscheletro, cioè un qualcosa che le permette di stare in posizione eretta e entrare in sala operatoria e operare come prima dell'incidente. Esatto, diciamo che l'accezione più ampia appunto è quella di esoscheletro, è in realtà una carrozzina elettronica verticalizzabile che è stata poi modificata apposta sia per le mie esigenze fisiche che anche ovviamente per le esigenze dell'ambiente particolare dove doveva essere utilizzata, quindi la sala operatoria, e mantenere quindi le condizioni di sterilità. Quindi lì in questo modo è possibile fare tutti gli interventi che lei ha sempre effettuato, anche l'anca, ginocchio. Esatto, ginocchia e tutta quella che è la grossa traumatologia che ha bisogno appunto nel caso della chirurgia ortopedica di una forza fisica e di una possibilità di mobilità comunque molto più ampia rispetto a quella che può offrire una carrozzina normale. Mi ha colpito una sua dichiarazione, dice: quando entro in carrozzina il paziente, che tra l'altro è lì già in una situazione in cui sta per essere operato, mi guarda con un occhio un po' strano e non ho mai capito se è l'effetto dell'anestesia o la preanestesia o se proprio mi guarda in maniera strana perché entro in carrozzina ad operarlo. Questa risposta non ce l'ha lei, insomma. Al momento sembra quasi più la seconda, nel senso che tanti pazienti li conosco già prima di entrare in sala operatoria, quindi sono già un po' preparati al trauma, ecco. Quelli che incontro magari per la traumatologia direttamente in sala operatoria sembra quasi che all'inizio dicano: già non sono io in condizioni splendide, eppure il chirurgo in carrozzina adesso mi va proprio di ma è questo sfiga, il discorso, cioè ma no, c'è questa idea sempre la superstizione, mamma no, mia ma no. Come se si fidassero poco, come se avessero più paura, che cos'è la sensazione? Ma in realtà è più lo stupore all'inizio, poi in realtà sarà che o li stordisco con le parole, oltre appunto all'effetto dell'anestesia, o comunque nel momento in cui si instaura poi realmente il rapporto medico-paziente, il discorso disabilità e carrozzina passa un po' in secondo piano. Beh, ci mancherebbe, meno male, nel senso che poi l'obiettivo è quello di fare un'operazione e portarla a termine e avere il risultato. Però come racconterebbe lei la sua storia? Una storia di forza, di determinazione? È tornato anche a fare sport, no? Quello sport che non poteva più fare come prima, ma ci sono tante possibilità anche per chi sta in carrozzina per fare sport. Sì, allora, il discorso sportivo in realtà non è mai stato in grande dubbio. Nel momento in cui ho capito che cosa mi era capitato e che per fortuna potevo continuare a fare tutta una serie di sport, si trattava principalmente di capire quale sport, ecco. Ha fatto sempre parte integrante della mia vita prima. Ho dovuto cambiare tipo di sport, però... E che sport pratica adesso? Adesso nuoto. Ho iniziato una serie di allenamenti prima, così molto più a scopo riabilitativo che non altro. Poi quando hanno iniziato ad arrivare anche i risultati, mi sono poi tesserato per una società che è la Briante 84, con la quale collaboro attualmente con il mio allenatore. In realtà è un modo di lavorare un po' particolare, perché lavoriamo a distanza, però alla fine è quello che poi ci ha consentito di raggiungere i risultati che ci eravamo prefissati. Ecco. Insomma, ma che dire? No, un'ultima curiosità, no, questo esoscheletro esisteva già, veniva utilizzato per altre cose oppure è stato pensato proprio in questa occasione per questo scopo? No, allora io ho preso una base che già esisteva e viene utilizzata magari per delle disabilità un po' più gravi, sì. Soprattutto più a fini riabilitativi, perché in carrozzina, chi vive in carrozzina, il fatto di potersi alzare in piedi dà qualche vantaggio in più, sia da un punto di vista della circolazione, delle ossa e così via. In realtà ho barato un pochettino utilizzando appunto il fine riabilitativo per fare riabilitazione mentre lavoro, e praticamente con piccoli o grandi accorgimenti ho dovuto cambiare la forma del joystick e arretrarla in modo tale da poterlo utilizzare anche una volta lavate le mani, quindi in condizioni sterili. Mi posso poi spostare direttamente in sala operatoria, ecco, senza avere aiuti e ausili esterni. La rende autonomo sostanzialmente, per cui può muoversi senza dipendere dagli altri. Esattamente, praticamente da quando ci salgo sopra alla fine poi dell'intervento, per fortuna non ho bisogno di altri aiuti. Grandi ausili. Noi Marco Dolfin la ringraziamo tantissimo, una storia, come dire, bella, ma perché con pacatezza ci ha raccontato di un terribile avvenimento che poi è stato trasformato in una nuova opportunità, mi verrebbe da dire. È questa, Alessandra, anche un'enorme determinazione, al di là della storia, no, uno dice strappalacrime, anzi una storia di grande reazione, una persona che è riuscita a reinventarsi una vita assolutamente come prima, ma in maniera diversa. Noi la ringraziamo, ortopedico a San Giovanni Bosco di Torino. Cari pazienti, se siete in sala operatoria e dovete tentare in carrozzina, non storcete la bocca. Anzi, siate fieri, perché uno con questa determinazione... L'importante è che operi. Secondo me uno con questa determinazione... ti rimette a posto. Allora, non abbiamo dato i numeri e questa è una notizia. Questa lo è una notizia. Pensavo anche prima e poi ho detto: ma quale sarà quello per mandare i messaggi? Allora, comunque, io le dico uno. Qual è per mandare i messaggi? Allora, facciamo 349-238-6666. Sì, ma non facciamo, come dire, a caso, è quello, cioè questo, non è numeri facciamo, a caso. Facciamo che questo è il mio, stavo dicendo. Va bene. Poi se volete chiamarci 800-24-0024, tra poco parleremo con un consigliere regionale della Puglia di scuola. Lui propone di iniziare la scuola a ottobre. E perché in Puglia vogliamo, fa caldo. Vogliamo sentire subito la vostra. Sì, cioè, perché siete in Puglia d'accordo? fa caldo e poi ci sono le vacanze. E gli poi albergatori vorrebbero albergatori. Che la stagione continuasse e i genitori però genitori fanno le barricate dicendo: vai, albergatori, vi prendete anche i bambini e ve li tenete voi fino al primo ottobre. Abbiate pazienza. Non lo so, parleremo quindi con questo consigliere regionale. Se ne discute. Vediamo, diteci anche la vostra, tra poco. I funamboli. Allora, tra l'altro, Veronica, alle 9.45 sì? Si aggira già Leonardo Manera, che mi ha guardato e mi ha detto: ti ricordi che... E mi ero dimenticato. Li state facendo gli addominali? No, lui sì, io no. Fateli, perché altrimenti col nudo, guarda che è un guaio. No, infatti, da oggi torniamo a regalare 4 biglietti per Platone, che torna domenica al Teatro Manzoni di Milano. Poi vi spieghiamo tutto. Chi se li fosse persi la scorsa volta, questa volta non se li può perdere. Anche non doveste vincere i biglietti, eh? Io ve lo dico. Esatto. Io ve lo dico. Tra poco vi daremo una notizia, voi dovrete dare un titolo, noi premieremo il nostro insindacabile giudizio. In maniera faziosa, loro poi sceglieranno il titolo che preferiscono, con io che mi sbraccerò tentando di imporne un altro e non verrò considerato, ve lo dico già adesso. Va bene, capita. Allora, la scuola. C'è un consigliere regionale della Puglia, si chiama Giovanni Stea ed è con noi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i telespettatori. Vabbè, siamo in radio, ma va bene lo stesso. Ha presentato una proposta di legge per modificare il calendario scolastico. Lei in pratica vorrebbe farlo partire ovviamente dall'anno prossimo a ottobre, va bene? Così, primo ottobre, diciamo. Diciamo che lo voglio far partire a fine settembre, inizio ottobre, come era negli anni passati quando eravamo ragazzi. Allora, la prima domanda è cosa, tempi lontani. Sì. Cosa le fa pensare che andrà bene a differenza dell'Emilia Romagna, in cui lo stesso progetto è fallito miseramente all'inizio della stagione quando se ne dibatteva? Guardi, io non ho seguito l'Emilia Romagna, io parlo per la Puglia per quanto riguarda noi. Io la mia proposta l'ho presentata a fine estate, sì. L'ho presentata in consiglio regionale, ne abbiamo discusso, adesso faremo un tavolo di concertazione al rientro delle feste natalizie. C'è la massima condivisione da parte di tutte le forze presenti in consiglio regionale, consigliere del presidente Michele Emiliano, sì. Anche se io faccio parte dell'opposizione. La proposta è stata accettata da tua. Da Vabbè, ma ci spieghi la ratio della proposta? Cioè lei la lo proposta fa... è questa: noi partiamo da un principio. Noi viviamo in una regione come la Puglia, che è baciata dal mare e dal sole, sì. È una regione che vive dall'agricoltura e dal turismo, è una fonte di ricchezza, e nello stesso tempo dobbiamo cercare di tutelare non solo i nostri concittadini, ma far venire anche più turisti in un mese come quello di settembre, che secondo noi pugliesi è uno dei migliori mesi, perché non si vive quelle giornate di afa e di caluria che c'è nel mese di agosto e nel mese di luglio. No. È anche un mese che c'è molto turismo da parte di gente anziana, ecco, anche questo bisogna dire. Vengano, e no, perché io dal punto di vista climatico sono assolutamente d'accordo con lei e farei volentieri anch'io tutto settembre al mare. Però mi chiedo, l'obiezione, quella classica che immagino sarebbe stata fatta e si sarà già posto il problema, quella delle scuole, quindi dei bambini, dove vanno? I genitori che ricominciano a lavorare non sanno come fare, non sanno come gestire questa cosa. Lei che risponde. Allora, partiamo da un principio, che noi nel mese di settembre, anni addietro, e anche l'anno scorso, in particolar modo l'anno scorso, quest'anno è andato un po' meglio, però noi non abbiamo i condizionatori d'aria nelle scuole, e quindi hanno sofferto anche giornate di caldo pari a 30 gradi circa, e quindi con sofferenza non solo degli insegnanti ma anche degli alunni. Vabbè, quindi è una cosa, ma io non ho capito, quindi è a tutela, dice, non ho capito come influisce, come possa influire sul turismo, cioè il fatto che i bambini stiano a casa, non è che uno attira il turista se il bambino sta a casa da scuola. No, il problema è un altro, appena inizia l'anno scolastico, tutti chi sta a ville sul mare, il mese di settembre è la chiusura delle ville e il rientro a casa perché sono finite le ferie e perché non si parla d'altro. Invece io credo, e anche il comparto alberghiero vive una situazione di crisi, anche perché poi c'è sempre l'invito da parte di famiglie, di amici che vengono dall'estero, che vengono dal nord, a trattenersi quei 10-15 giorni in più, che possono portare più ricchezza e più economia alla nostra regione. Ma è stato fatto una stima di quanto potrebbe, ora non dico esattamente perché è difficile, ma di quanto potrebbe portare in più alle casse della regione? Cioè si pensa che sia una significativa come somma? Allora, questo non l'abbiamo ancora fatto, però quando inizierà questo tavolo di concertazione sì, entreremo anche vale. In merito a questo punto. No, però voglio dire, se nelle altre regioni invece vanno a scuola, non vengono in vacanza da voi? Cioè, nel senso, no, il legame noi col turismo, non l'incentivazione, faccio fatica noi a capire, vogliamo so, essere apripista per tutti. Noi vogliamo essere apripista per tutte le regioni del sud, prima di tutto. Ecco. E poi anche per quelle del nord, perché al nord si vive di turismo invernale, al infatti, sud si vive di turismo estivo. Vabbè, ma da giugno a settembre sono tre mesi, però il turismo estivo. Le scuole sono chiuse già tre mesi. Ma il problema è un altro, cioè dove si trova la collocazione, siccome le scuole chiudono nella prima decade di giugno, sì. Non vedo qual è il motivo, quindi i ragazzini rimangono a casa anche sì. Nel mese di giugno, non è che vanno infatti, in ferie a giugno infatti. O a luglio, ci sono dei 15 giorni, 20 giorni, un mese di ferie, non vedo qual è il problema di posticipare di due settimane con un rientro settimanale appunto, di tre ore appunti, appunto spalmato, Stea spalmato, già le famiglie dicono abbiamo problemi a gestirli due mesi e mezzo, se mo diventa anche poi tre mesi vabbè, ancora Ale, stai peggio. Tranquillo perché è la Puglia, prima di arrivare a te ci vuole tempo, quindi no vabbè, ma nel senso stai tranquillo, no, ma io volevo difendo chiederle... le famiglie capisco, pugliese permettetemi, non capisco il perché i nostri genitori lo facevano con tanto con tanta passione senza creare problemi, i genitori di oggi invece creano problemi. Beh, comunque è cambiato, questo un po' lo possiamo genitori dire, pugliesi, il modo di vivere, sono cambiati i sistemi, le mamme lavorano lavorano, più di quanto lavorassero no? prima, cioè, bene, ci sono spero. Tante cose, i tempi sono molto più convulsi. Io avevo anche un altro dubbio, rispetto al programma scolastico, se i bimbi iniziano ad andare a scuola un mese più tardi rispetto alle altre regioni, se non altro in una prima fase finché tutta Italia non si omologa al primo ottobre, come si pensa di fare per i programmi? Cioè questo mese quando viene recuperato? No, io le ho detto che noi lasciando stare i 200 giorni scolastici, noi dobbiamo fare, la proposta è un rientro settimanale di tre ore che in un mese porta due giorni, spalmati nei mesi scolastici che sono 7, 8, sono quindi sì, recuperate 14, così, stanno un pomeriggio in più. Quindi non è detto sì, che sì. Dobbiamo andare al primo ottobre, andremo al 25, al 24, al 26. Mm. Vabbè, insomma, lei dice recuperare anche solo 10 giorni, potrebbe recuperare 10 giorni. 15 giorni, sì, non è detto che dobbiamo andare per forza al primo. No, però voglio dire, però lei non può, come dire, appunto, non vedere che il mondo è cambiato, le donne lavorano, non può dire all'epoca i genitori ce la facevano. E vabbè, ma il mondo. A meno mondo che negli avanti, stabilimenti no? Non si faccia un'alternativa alle scuole, non si mettano lì i bambini fino esatto. Al. Prevedete questo. Comunque, Giovanni Ste, adesso vediamo, dopo le vacanze. Vediamo questo tavolo di concertazione, prima faranno quello sull'Ilva magari che è un po' più delicato, però arriverà anche più questo. Urgente arriverà, però c'è anche questo. Chi propone allora a Canazei le scuole le teniamo chiuse da dicembre a marzo perché ci facciamo le settimane bianche. Vabbè, quindi adesso istanze da valutare. Ah, ma sì, andiamo tutti come lucignolo nel mondo dei, com'era quello di Pinocchio, paese dei balocchi, paese dei balocchi. È arrivato Leonardo Manera, signori, buongiorno. Io sono d'accordo, buongiorno. Con il consigliere pugliese. Io sono d'accordo, sì, io ricordo come tutti voi immagino, forse anche Veronica andavamo a scuola il primo di ottobre, ecco. No? Anche tu Veronica, no, il primo ottobre? Io purtroppo no. Si vanta di essere più giovane. Purtroppo ci tengo sempre a sottolineare la nostra ventina d'anni di differenza, ma volevo anche dire che secondo me l'idea non è malina. Vabbè, il ricordo che io del primo giorno di scuola mio, il primo ottobre, è che prima avevo pianto tantissimo perché ero preoccupato, poi ho conosciuto William, mio amico che è ancora oggi amico dopo tanti anni, lui è venuto a casa mia, mi ha rubato dei soldatini subito e mia madre mi ha preparato le frittelle alle mele per, così, per consolarmi. Quindi è giusto che le mamme stiano a casa a preparare frittelle di mele per i figli, non devono andare a lavorare. Basta. frittelle di mele. Siamo per il progresso, siamo per la civiltà, il problema si è risolto, capisci? Siamo per le frittelle alle mele, basta. Allora andiamo al traffico, va, il clima è questo. Tra poco regaliamo i primi biglietti per Platone. I funamboli. Allora, sono le 9:47 quando i Cranberries suonano qui. Siamo a Radio... No, niente, siamo a Radio 24, tranquilli. Allora, è il momento. Domenica torna Platone alle 20:45 al Teatro Manzoni di Milano. con un grande ospite che è Giuseppe Cruciani stavolta, che parlerà del suo libro. Come si intitola il suo libro? Ah, com'è che è sui nazi vegani. I nazi vegani o i fascio vegani? È stato morbido o è stato duro? Credo, non lo so, adesso vediamo. Google aiuta. I fascio vegani, vedi, sono dei nazi vegani. È un tipo pacato. Ma ci sarà tutta Cruciani una finestra su questa tematica domenica o no? Ma sicuramente. Credolo, penso di sì. Credolo. Ci saranno credolo anche i vegani. Che è l'ottavo nano, no? Credolo. Credolo è un modo di dire che si usava in italiano, no, un po' arcaico. Credolo. Sì, sì, sì. Comunque, volete vincere i primi 4 biglietti, nel senso che li diamo a 2 vincitori, perché così vi portiamo in coppia a teatro. Allora, la notizia su cui dovete mandare un titolo. Attenzione, la notizia. Quale sarà mai? La vittoria del Milan, signore. Capisci? Quando si dice autoreferenzialità, la remontada, no? Quando il si Milan dice che torna a vincere, rimpiango il metatarso distratto io. Allora, Bonaventura, rete, ha raddoppiato il Milan. Allora, dovete mandarci, se voi foste titolisti di un giornale, da San Severino Marche. Sì. Dovete mandare un titolo, il titolo che vi ispira alla vittoria del Milan, fate i bravi, al 349-238-6666. Diteci però, per favore, il vostro nome e la città da cui ci scrivete il titolo. La città, sì. La città. Ricordiamo anche che Platone è al Teatro Manzoni di Milano, quindi certo, domenica alle 20:45, certo. Magari è esatto. Più facile dare i biglietti a chi abita, diciamo, in Lombardia. Ecco. Scrivete da Barletta più possibile. Però vi pagate l'aereo poi da Barletta. No, come, scusami? No, quello poi a spese vostre, voi due fate una colletta. No, da Barletta vi prego, mandate bei titoli, io scelgo il titolo subito da Barletta. Dai, il titolo al 349-238-6666 sulla vittoria del Milan. Oggi premiamo i primi 2 vincitori. Ci accontentiamo, poi una volta eravamo felici di battere Real Madrid, adesso col Bologna. Che tremare il mondo fa, prego. Allora, io vorrei parlare di una notizia che ho letto ieri sul Corriere della Sera, non grande, una piccola notizia, un po' laterale così. Melania Trump stava rispondendo a una domanda di alcuni bambini che le avevano chiesto dove avrebbe voluto andare in vacanza. Lei, malinconica, ha risposto: su un'isola deserta. È vero. Poi ha fatto una lunga pausa e ha aggiunto: con la mia famiglia. Ma l'ha aggiunto proprio perché dire su un'isola deserta da sola oppure con uno stallone cubano, per esempio, non sarebbe stato coerente col suo ruolo di First Lady. Ecco, io, Melania, mi rivolgo direttamente a te. Melania, tu probabilmente sei una delle donne ormai più ricche al mondo. Donald ti avrà intestato centinaia di appartamenti, partecipazioni in società, azioni. Sei ricca da fare schifo. Eppure nei tuoi occhi c'è sempre quell'espressione malinconica. E in più, sembra che anche di fare la First Lady non te ne freghi niente. Stavi bene, anzi stavi meglio anche prima, senza dover presenziare a centinaia di eventi benefici di cui probabilmente non te ne frega niente. Stavi bene tu nella tua Trump Tower e basta, senza dover andare di qua di là a fingere interesse per ogni tipo di associazione. L'associazione di pompieri amici del teatro, l'associazione di teatro amici dei pompieri, l'associazione di pompieri amici dei pompieri. I pompieri sono fortissimi negli Stati Uniti. L'unica cosa che hai fatto veramente volentieri è smantellare l'orto super biologico ed ecocompatibile di Michelle Obama alla Casa Bianca. Giustamente, devo dire, perché mettersi a zappare per tirare su 2 cavolfiori quando la Trump Tower o anche la Casa Bianca puoi avere decine di camerieri che i cavolfiori te li portano belli e pronti sul tavolo? Ecco, forse quello dell'orto, del cavolfiore pronto, è la logica che ha mosso anche Melania Trump, anche nella scelta del marito. Perché sbattersi a cercare l'amore vero, a farsi coinvolgere dall'amore vero, quando c'era già un cavolfiore pronto, che tra l'altro ti viene servito su un vassoio d'argento con posate di oro zecchino? Melania, io mi rivolgo direttamente a te. Io non so quando hai sposato Donald Trump, se eri innamorata di lui, non lo so. Però si vede, è evidente che ormai non ne puoi più di lui, non lo sopporti più. Il cavolfiore è già pronto, anche se condito in tutti i modi possibili, ti risulta indigesto. Melania, fai una scelta coraggiosa, lascia subito Donald e vieni qui da me in Italia. Sei una donna bella, io sono un bell'uomo. Vieni a vivere da me a Milano in piazza Udine. Prometto che non ti farò presenziare nessuna cerimonia. Prometto che non metterò mai un parrucchino come quello di Donald. E in più ti offrirò l'ebbrezza di alcune cose normali che tu ormai non fai più da tempo, da troppi anni. Melania, con me verrai a far la spesa alla UNES. Compreremo insieme il pane della signora Bruna e Betty sotto casa e poi al sabato pomeriggio consumeremo un rapporto sessuale sul divano di casa comprato dagli artigiani della qualità. E poi avrai il mio amore assoluto, incondizionato, che ti manifesterò quando insieme in casa sbatteremo i tappeti o passeremo l'aspirapolvere. Queste, Melania, sono le cose che danno un senso alla vita. E poi, se le cose economicamente andranno bene d'estate, anche faremo una vacanza al mare, il nostro bel mar del sud, con pausa all'Alto Grill di Sala Consilina, sulla ex Salerno Reggio Calabria, per una gustosa rustichella. Perciò, Melania, rinuncia al tuo cavolfiore già pronto e vieni qui, da me, a Milano. Piazza Udine ti aspetta! Ah, una storia meravigliosa! Ma che ne sai, magari secondo Melania... me arriva, facciamo una cena a quattro poi. Allora, l'altro appello che avevi fatto alla vecchia compagna di liceo è finito nel deserto, devo dire. Però ha scritto il suo ex fidanzato, sì. Un po' piccato, un po' seccato. Ma perché lì c'erano già i precedenti, mentre qui sarebbe una cosa ex novo, quindi potrebbe darsi. Ma non vi fa un po' tristezza Melania Trump? Sempre abbastanza, con quello sguardo malinconico. Abbastanza. Trattata soprattutto molto bene da Trump, con degli sguardi, si gira, la guarda, tipo il giorno dell'inaugurazione, la guarda con quel fare come dire tu, vattene via. Che, voglio dire, della coppia è quella che emerge. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this? Sweden. Questa era mitica di Trump, che raccontava Sweden. Cosa è successo in Svezia. In Svezia, un attentato che si è inventato. Non è successo assolutamente nulla. Wait, in Svezia. In Sweden. Niente. Sweden. Niente era Sweden. Successo. Io sono convinto che Melania verrà in Piazza Udine. Esatto. È che Trump aveva visto probabilmente la CNN. Avete visto che Trump è stato reso noto dai collaboratori, si sveglia tra le 5 e le 5 e mezza del mattino senza lamentarsi come facevo io quando mi svegliavo alle 5. Poi già dal suo si stende sul cuscino, si tira su e inizia a twittare. Questa è la sua giornata tipo. Poi... Sì, dalla mattina poi pare veda 4 ore di televisione al giorno e ha la ragione. Ragazzi. Per cui non voleva che uscisse l'articolo e si raccontasse come vive. Esatto, si presenta in pigiama nello studio ovale. Tutti questi super miliardari che potrebbero insomma alzarsi alle 10, godersi la vita un po' di più, invece si alzano ancora alle 5. No. Diciamo anche Leo che non è una partita difficile la tua, hai già quasi vinto con Melania, dai. Allora, c'è Antonio da Frosinone che ci ha chiamato all'800240024. Eccoci Antonio. Sì, buongiorno a voi. Volevo soltanto manifestare il mio consenso per la proposta del rientro a scuola il 1 ottobre o comunque nel mese di ottobre. Perché lei è pugliese, no? No, assolutamente. Noi siamo qui in Frosinone, centro Italia, siamo a 30 chilometri dal Parco Nazionale degli Abruzzi, quindi tranquillamente ai piedi dell'Appennino. E perché centrale. Favorevole? Allora, semplicemente perché per chi è andato in Puglia per vacanze o per altri motivi, si può rendere conto perfettamente di questa situazione. Lì le farmacie aprono alle 5 del pomeriggio e la spesa si fa alle 10:30 la sera. 10:30 la sera. Per cui c'è un allungamento dei tempi, per cui sarebbe auspicabile insomma l'inizio ai primi di ottobre della scuola. Della scuola. Vabbè, ma così va bene, Antonio, grazie. Ma lei dice anche qui nel Lazio, cioè Fregene, Maccarese, Ostia. Chi lo sa. Perché... Comunque continuano ad arrivare i titoli, mandateli, c'è anche Miracolo a Milano. C'è arrivato questo titolo da Bruxelles. Questo però l'ho suggerito in testa io. Questa inizio puntata ho detto Miracolo a Milano, la città tu non cogli perché sei preso da così. Comunque che clamoroso Almeazza con Meazza. Clamoroso Almeazza non è male. Con un certo rimando a un non so chi, è tanta roba. La seconda ora di Funamboli dopo il giornale. I Funamboli. Say you want a revolution. Well, you know. Eccoci qui, siamo alla seconda ora dei Funamboli, siamo in diretta fino alle 11 su Radio 24. Ce ne avete da sbizzarrirvi con i titoli che sono arrivati? Ma sai... C'è basta, di tutto e di più, hai visto? Te ne ho mandato calcio. Subito uno in via privilegiata, sì. Però non lo posso leggere perché mi vergogno. No, ma non c'è problema, il Milan non fa più cacà, grande campione di calcio. Che gioca ancora in Brasile, dove è cacà gioca adesso? Gioca negli Stati Uniti. Cosa c'è? Non mi guardare Cacà così è un grandissimo. Lo sai contro Cacà? No, niente, mi fa ridere. Questo titolo l'ho trovato. Cacà, tra l'altro, ex fidanzato di Barbara Berlusconi, tra le altre cose. No, quello è Pato, dai. Ah, è vero, era manchi Pato. Anche sui Pato. Fondamentali da Novella 2000, quello era Pato. È vero, mamma questo è vero. Certo Cacà, che pure però, loro ce la mettono tutta con i nomi per complicare la cosa. Pato? E Cacà, e cosa c'è? Cacà, Pato. Grandissimo. No, Pato. Pato, certo. Vabbè, insomma, niente. Quindi non era Cacà fidanzato di Barbara? No, era Pato, non creiamo. Questo, dai, che dovevano vendere, Barbara Berlusconi si rifiutò, chiese a papà di non venderlo perché era fidanzata con Pato. Vabbè, questa è storia. Ma è stata una breve liaison oppure abbiamo anche qualche erede Pato berlusconiano? No, non ci sono eredi Pato berlusconiani. Sono una liaison, ma neanche brevissima. Vabbè, ma tutto questo interesserà molto agli ascoltatori alle 10:09 minuti. Parliamo della liaison Pato Barbara Berlusconi. No, è partito no. Tutto da Cacà. No, esatto. In realtà noi vogliamo parlare. Questo è un tema molto molto interessante, secondo me, perché riguarda moltissimi italiani. Anche molto divisivo, secondo sì, me. Moltissimi italiani che hanno, che ti piace, che hanno in casa, non la sopporto. Che hanno in casa delle badanti. Sono moltissimi gli anziani che hanno una badante, spesso sono straniere, ci sono anche italiane, ma devo dire che la maggior parte sono straniere. E effettivamente, quando si mette in casa una persona per accudire due anziani, è ovvio che ci sia una preoccupazione, cioè chi mettiamo in casa a fianco ai nostri cari, ai nostri nonni, ai nostri genitori. Che si deve prendere cura di loro e poi spesso magari appunto quando sono più fragili, quindi quando sono meno in grado e hanno meno strumenti per difendersi o per valutare, quindi si ha doppiamente paura. Sì, diciamo anche che fare la badante è un lavoro faticoso perché molto. A volte lo fai 24 ore al giorno, ci sono badanti che stanno in casa veramente tutto il giorno, diventa insomma una specie veramente di carcere a volte. No, ma anche la dedizione poi che ci vuole molto spesso quando ci sono persone che sono in condizioni fisiche magari un po'... Oh, tra l'altro non l'abbiamo Bravosa. Chiamato il nostro ospite per la vicenda di cronaca che però purtroppo è accaduta due giorni fa, c'è stato qualche giorno fa addirittura un badante che di fronte al rischio di un licenziamento da parte del proprio datore di lavoro, cioè l'anziano con cui era, lo ha ucciso. Questa vabbè è stata una vicenda di cronaca terribile. Comunque lo salutiamo, Mauro Elmo è un investigatore privato, è laureato in giurisprudenza, ex luogotenente dei Carabinieri ed è specializzato, si sta specializzando da qualche mese proprio nelle inchieste, nelle investigazioni, nel cercare di capire, ma insomma, queste badanti che mettiamo in casa, che affidabilità hanno? Mauro Elmo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ai vostri radioascoltatori. E grazie di essere qui. Il discorso delle badanti, come lei ha accennato giustamente, è nato da pochissimo. In realtà c'è sempre stato una sorta di controllo dell'affidabilità delle persone. Basta pensare alle referenze. Una volta, per poter accedere al lavoro, si doveva portare le referenze. Beh, però le referenze adesso... in questo caso, se non sbaglio, è nata in modo diverso. È vero che una signora, insomma, è entrata nell'agenzia sua a dire: senta, devo trovare una badante per i miei genitori, come faccio a essere sicura? E da qui le è scattata un po' la lampadina, lei, no? Esattamente, proprio così. È nato proprio nel mese di settembre, si presenta negli uffici dell'agenzia investigativa Le Tracce questa signora e mi chiede: io ho questi due o tre nominativi, però devo mettere una persona altamente affidabile nella casa dove vivono i miei genitori 85 anni. E la necessità era quella appunto di fornire una persona affidabile, anche perché avevano già subito delle disavventure, non per ultimo un furto nell'abitazione. Ecco. E da lì è stata scattata la ricerca, le informazioni, quelle generali, su queste tre persone. Di queste tre persone poi lei ha scelto una persona di nazionalità rumena, scartando anche una persona di nazionalità italiana. Certo, quindi investigazioni che lei ha fatto, insomma, ma cioè, ci faccia capire questo tipo di investigazione. Che genere di investigazione, esatto? Che cosa bisogna scoprire di una persona perché possa un futuro datore di lavoro o un figlio con un genitore anziano possa essere tranquillo? Tutto e di più. Nasce proprio dal vissuto della persona nella nazione di origine. Basta pensare che una persona che risiede per 35-40 anni, ipotizziamo in Romania, poi si trasferisce in Italia e decide di fare la badante. Ormai tutti quelli che non hanno altro da fare fanno le badanti. Ora cosa succede? Che in questi 40 anni può essere successo di tutto e di più. Allora, tramite gli investigatori privati, si va a fondo sul vissuto di questa persona. Ma quindi lei va a scoprire poi, questi 40 anni, se ha precedenti penali, come ha vissuto, se ha compiuto... Come ha passato i primi 40, 45, 50 anni questa persona? Esattamente. Dopodiché, una volta che sono in Italia, di solito si costruiscono... tenga presente che ci sono delle persone di nazionalità rumena, moldava, peruviana, che sono bravissime e sono pulitissime, linde, sotto l'aspetto della filiera penale, però ci sono altre invece che sfruttano questa tipologia di lavoro per crearsi delle occasioni e poter fornire a queste persone delle notizie fondamentali, quali, non so, il reddito, il tenore di vita, via dicendo. Ma è molto delicata la questione, anche perché poi quando un anziano, magari un genitore, ci dice ma la badante sta facendo questo, c'è sempre da parte dei figli, dei parenti, a dire ma insomma magari mio papà, mia mamma ha perso un po' di lucidità, devo credere a quello che mi dice. Però effettivamente è la posizione più delicata, insomma, che ci sia. Guardi, la settimana scorsa mi ha contattato telefonicamente un signore piemontese di circa 80 anni. E il suo bisogno reale era quello di trovare una colf badante che potesse assisterlo nella propria abitazione, però lui aveva questo problema. Premetto, una famiglia benestante, sì. Due figli imprenditori che viaggiano per tutto il mondo, e lui dice: io sarò solo con questa badante, man mano che andrò avanti con l'età ci saranno dei problemi. Vorrei che lei, una volta che scegliesse tra questi due nominativi che le fornirò, lei farà tutte le informazioni del caso, ma poi ogni tanto lei dovrà venire a casa mia per toccare il tempo a queste badanti. E per toccare il tempo lui voleva intendere ammonirla qualora non... Quindi lei va oltre l'investigazione, lei diventa anche un po' un datore di lavoro di queste badanti in maniera indiretta, però è come se le tenesse sotto controllo, monitorasse il loro agire, cioè resta una relazione. Datore poi. Di lavoro, chiedo scusa, dottore di lavoro no, ma chiaramente amico di famiglia adesso... sì. Cioè, amico di famiglia. Ecco, perché lei non le controlla solo nel momento in cui c'è la scelta, cioè, le controlla anche mentre lavorano, cioè le... Esattamente. Ovviamente a loro insaputa, cioè sono... Ovviamente. Però lei deve ben pensare che se una persona sa che ci sono delle persone che possono intervenire nell'abitazione in qualsiasi ora del giorno o della notte, è chiaro che rimaniamo con noi, è chiaro sempre che d'altra parte sono un po' più accorte, sì. No? Vabbè, ma d'altronde è come se è un investigatore, è come se un marito o una moglie si rivolge, non è che la persona che viene, tra virgolette, pedinata lo deve sapere, se no cade però un tutto... po' lo sanno, questo sta dicendo, cioè se si sa che c'è una figura poi altra che interviene, che può andare a fare dei controlli, può supervisionare, sei maggiormente, usi maggiore cautela, questo credo sia... Comunque credo che ci sia anche un controllo all'interno delle varie comunità, perché le badanti sono soprattutto appunto rumene, moldave, ucraine, polacche, e io penso, avendo avuto anche a che fare con alcune di queste persone, che ci sia un controllo anche all'interno in queste comunità, loro sanno quali sono le persone più affidabili. Oppure no, insomma. Ecco, intanto perché sono soprattutto di alcune specifiche nazionalità? Questo è vero, Elmo, lei l'ha riscontrato? Sì, l'ho riscontrato, sì. Aggiungo ancora quelle peruviane, però sì, diciamo che l'80% provengono dalla Romania. L'80% dalla Romania. Sì. Senta, ma non ci sono mai situazioni in cui appunto queste donne, queste signore si sentano particolarmente gli occhi addosso e siano infastidite da questo, cioè che abbiano poi dopo contezza del fatto che lei ha fatto delle indagini e possano sentirsi, insomma, violate nella privacy? Assolutamente no, perché le informazioni sono assolutamente, come posso dire, riservate. Dunque la persona non sa poi non se lo sono sanno. State effettuate o no, non lo sa. Le dico, per esempio, per la nazione della Romania ho un referente sul posto che attinge queste informazioni confidenziali sulla famiglia, dunque se ha già avuto un trascorso nei primi 35-40 anni me lo comunica, e dunque sono persone che si vogliono riadattare in un'altra nazione pulendo tutto la vicenda pregressa. Mm-hmm. Sì, certo, non vengono a saperlo, quindi insomma vengono magari o assunte perché hanno evidentemente c'è stata un'investigazione che porta buone notizie, oppure non vengono assunte ma non vengono a sapere il motivo, ecco, della sua investigazione. Ma sono tante le persone che sono aumentate le persone che si rivolgono per questa tipologia specifica di problematica? Sì, ma anche perché è il contesto sociale attuale, il periodo storico, chiamiamolo come vogliamo, però la sicurezza è un elemento che viene a mancare nel corso del tempo e ci troviamo in un momento in cui tutti diffidano dell'altro di persona. Sì, no, ma è chiaro. Ma per sponsorizzare un lavoro come il suo va fatto proprio, insomma, per passaparola, perché è una abbastanza nuova come attività. Non è molto frequente. È iniziato frequente. Tutto a settembre, da settembre ad oggi io ho ricevuto queste 10 richieste e le dico che da quando è apparso l'articolo sul Corriere della Sera immagino. Il mio telefono è bene, anche noi l'abbiamo chiamata adesso non l'abbiamo... per fare investigazioni, però Mauro Elmo noi la ringraziamo per questa sua, insomma è un nuovo lavoro se volete, che poi è un sottolavoro, nel senso che avendo un'agenzia investigativa è un'altra branca dell'investigazione. A volte ci sono anche comportamenti sgradevoli nei confronti delle badanti, come no, assolutamente è un lavoro molto, molto delicato e molto apprezzabile. Ha ragione, diciamo. Leonardo, anche un lavoro di enorme dedizione, per cui a volte ci sono delle persone proprio che uno le ammira per l'affetto e l'attenzione con cui stanno accanto a persone care a noi. Quindi. Allora, il momento del traffico e poi rientriamo. I funamboli. Amico italiano, hai lamentele inutili? Problemi che non troveranno mai una soluzione? Fastidi sociali di piccola entità che producono comunque orticaria ed effetti collaterali sulla tua pelle? Allora chiamaci ed esponi la tua polemica sterile all'800 24 00 24. Noi siamo qui e ti ascoltiamo sterilmente. Avrei una polemica piuttosto sterile. Il mio pensiero è che questo inizio millennio fa schifo. Destra e sinistra, basta. Sterile è un cazzo, bravo, liberate le piazzole, carico e scarico. A proposito di polemiche sterili sul traffico, avete ragione alla radio. Io non capisco perché continuate a interrompere le notizie del traffico con tutte le baggianate che dicono la radio. Buongiorno, Marco Taxi da Roma. A voglio fare la polemica sterile. Voglio sapere perché non canti. Perché non mi canti una canzone, è vero? Perché? Mi sembra veramente incredibile fare una rubrica sulle polemiche sterile. Ma siamo impazziti? Ma dove siamo? Ma dove stiamo andando? Volete una polemica sterile? Eccola. Questa è geniale, la polemica sterile sul questa fatto no, di aver fatto una rubrica sulla polemica sterile. Questa è veramente la meta polemica sterile. Assomigliamo comunque, un po' a Carlo Gabbardini come tipo vero, di voce. È vero. Comunque, Marco Taxi ha ragione comunque. Marco Taxi è lunedì su... Marco Taxi, io se vuoi canto, però tu devi parlare con Milan direttamente e gli devi spiegare che non può censurarmi. Marco Taxi, per una settimana di taxi gratis a Roma, adesso vediamo. Italia. Questa non è male, no, l'inno. Questa non mi piace tanto. Questa qual era? Allora. Ah sì, me la ricordo, la facevano, sì. Sì, sì. Allora, le 10:23 minuti, come avete visto, le nostre polemiche sterili stanno, come dire, esondando. Io non ne ho una, ma adesso ci penso un attimo. Io mi convinco sempre di più che la mia polemica sterile è sull'inno di Mameli, che dovrebbe chiamarsi inno di Novaro. Quindi... eccoci, vabbè, è veramente sterile questa. Ci ha presa così oggi? Non lo so, no, ci sono gli ascoltatori, però se volete mandarci le polemiche sterili chiamateci, l'800 24 0024, oppure WhatsApp, come fanno a mandare la polemica sterile, Veronica? Non lo so proprio, fammici pensare, oddio, mi servirebbe un numero. Ah, 349-238-6666, ecco, ripeto ancora, 349-238-6666. In audio, come i nostri ascoltatori, la polemica sterile. Ed eccoci con Isabella da Verona, che in realtà non aveva una polemica sterile, credo. No. Isabella, no. No, Isabella, no. Che ci vuole dire? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Niente, ho ascoltato l'assessore pugliese e sì. Insomma, sì. Lo trovo folle. Non è un assessore, è un consigliere, consigliere. No, regionale. Consigliere, vabbè, uguale. Scusate, sì. Ero un po' confusa perché quando ho sentito quel che ha detto... Le si è annebbiata la vista. Ricordiamo, esatto, vuole proporre la scuola in Puglia che inizi un po' più in là, a ottobre. Sì, ma poi ha aggiunto che lo vorrebbe, se ho capito bene, che vorrebbe estendere... Chiaramente, a tutta Italia, va bene. Allora, due cose solo, velocemente, perché sulla scuola sì. Ci sarebbe tanto da dire. Lei è insegnante? Sì, io sono docente di economia aziendale in una scuola superiore. Allora, io ho scritto anche in un messaggio che io cambierai il calendario e lo farei avvicinare a quelli di paesi tipo Francia, Germania, che cominciano prima e hanno degli intervalli durante l'anno, perché comunque i giorni vanno fatti. Però due cose, già l'intervallo estivo annebbia la mente a docenti è troppo e alunni lungo. E farlo più lungo proprio non ha più senso, era negli anni 60 ma erano altre condizioni. Il rientro che lui propone non tiene conto che i ragazzi vengono da lontano, cioè cominciano a fare 2-3 ore in più al pomeriggio, cioè non studiano più e diventa tutto molto complicato. E poi c'è la questione nostra, cioè siamo additati come quelli che hanno 3 mesi di ferie e non è vero. Cosa facciamo fino ai primi di ottobre? Che siamo anche pagati, certo. Ecco, e questo secondo me sono tre questioni no, sulle quali, con le quali smonta assolutamente questa proposta del consigliere. Va bene, senza Isabella. Neanche per rifarsi all'argomento più classico di come fanno i genitori quindi ne abbiamo aggiunti altri tre. Va bene, Isabella, quello che dicono tutti è settembre è il mese più bello per andare in ferie, ma allora prolunghiamo la scuola fino a fine luglio, perché siamo tutti noi che sbagliamo andare in ferie in luglio e in agosto, sì, bisogna andare solo a settembre. Notoriamente con quel fresco che c'è, che si sta così bene nelle capitali, no? No, Isabella pone, ti fa stare bene andare a scuola a luglio. Pone anche bene il problema, Isabella, delle 3 mesi di vacanze per non solo per gli insegnanti, proprio per il minimo di continuità didattica, esatto. Dal punto di vista proprio cognitivo si dimenticano tutto. 2 per 3, chiedetelo, 2 per 3 a un allievo alla fine delle 7 per 8. Dai, Nicolò da Ravenna, buongiorno. Esatto. Nicolò. Buongiorno, sì, buongiorno Nicolò, eccoci. Sì, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Sì. E niente, volevo portare la mia testimonianza, cioè nel senso io da tanti anni faccio imprenditore turistico in Riviera Romagnola e volevo appunto dire che negli anni, fino agli anni 80, quando le scuole chiudevano il 1° di giugno e aprivano il 1° di ottobre, perché così era, adesso molti non si ricordano, ma era così. Praticamente il mese di settembre, ancora anche Riviera Romagnola, molti alberghi riuscivano a lavorare anche bene anche a settembre. Qual era la clientela di questo periodo? La clientela di questo periodo erano le nonne, i nonni con i nipotini, i bambini piccoli, quelli che erano, in modo tale che praticamente era un clima anche più adeguato, piuttosto che portare. Quindi lei è favorevole, lo vorrebbe. Quindi io sarei favorevole, tanto più che l'assessore dell'Emilia Romagna, turismo dell'Emilia Romagna, ha proposto, ma non fino al 1° di ottobre, che mi sembra un po' esagerato, ma di riaprire le scuole il 3° lunedì del mese. Sì, qualche giorno. Motivo perché spesso adesso abbiamo visto che iniziano le scuole il giovedì, il venerdì, che sembra un assurdo. E per questa ragione già praticamente una settimana di vacanze al mare non si fanno più. Iniziare il 3° lunedì del mese, che grosso modo verrebbe verso il 17-18 del mese, darebbe la possibilità di lavorare anche la settimana. Vabbè, Nicolò, ma i bimbi dove li mettiamo però? Anzi, dove li mettete? Io sono d'accordo, guarda. Leonardo, no, d'accordo, sono d'accordo. Io, anzi, per favorire il turismo, perché poi comincia la stagione termale, poi le montagne. Aboliamo la scuola, no, così vabbè. Almeno ma il no, turismo. Ma tu sei partito di sono d'accordo e poi vai a cadere nei paradossi. No, non è un paradosso. Favoriamo la crescita del PIL attraverso il turismo. Quindi c'è la stagione estiva, poi le terme, poi la montagna. E si fa un mese tra aprile e maggio di scuola. No, questo no, però adesso non è così. Però Nicolò da Ravenna ricordava quando si entrava a scuola il 1° ottobre. È favorevole al nostro consigliere regionale e va bene, è dibattuta la questione, come vedete. Allora, cari amici, cari funamboli, dobbiamo sapere che cosa succede nella borsa di Milano e allora andiamo a scoprirlo e poi rientriamo qui in diretta. Fuzzi Mibe, il Fuzzi All Share. E vediamo adesso. Per scopriamo. Te cambierà tutto, immagino. Sì, eh? Sì, anche per te. Ciao. I Funamboli. Polemica sterile sul consigliere regionale pugliese. Smettetela di parlare di sto pirla che voleva solo 5 minuti di celebrità a livello nazionale. C'è il ritardo. Va bene, Marco Taxi sarà contento. Caro ascoltatore, guarda che invece il tema lanciato anche in Emilia Romagna è un tema molto molto serio, l'apertura delle scuole. È l'ennesima volta poi che se ne discute, quindi evidentemente non è tanto un'uscita così istrionica per fare il gradasso. Anche perché se ne discuterà adesso la regione Puglia. Comunque c'è Giuseppe che ci chiama da Ragusa, dunque Sicilia, vuole intervenire sulle scuole? Sì, grazie, eccoci. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci. Voglio dire questo, che il problema scuole deve rimanere prettamente territoriale. In Sicilia ci sono delle esigenze, in Lombardia ce ne sono altre. Io lavoro anche a Milano in alcuni periodi e quindi conosco il territorio. E poi, ma un po' è così, cioè il calendario scolastico si adatta, ovviamente tutti devono rispettare le tot giornate l'anno, ma poi si adatta. Già adesso parte una settimana dopo in alcune zone la scuola. Quindi... Va bene anche l'autonomia scolastica, perché ogni dirigente scolastico possa personalizzare un po' il calendario in base anche all'utenza, cioè ai ragazzi e ai genitori. Sì. Però una cosa vorrei dire, piuttosto che 3 mesi di chiusura totale delle scuole, facciamo manutenzione durante questo periodo. E cerchiamo anche di usare la struttura per magari attività, non so, didattiche extrascolastiche. Vabbè, Giuseppe, sì, ma in che senso? Manutenzione è un'altra cosa. Cioè, facendo delle lezioni, così si utilizzano come seggi. Fare delle lezioni. Lezioni no, basta. Anche d'estate no. Va bene, Giuseppe, la ringraziamo. Andiamo a Macerata da Franco. Buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Volevo dire che su questo argomento scuola, no? Il problema fondamentale della scuola è quello di dare istruzione, non di consentire ai bambini di andare in turismo. E quindi io direi che la scuola, gli orari vanno dimensionati per consentire agli studenti di studiare il meglio possibile. Quindi... Vabbè, però diciamo, anche supportare non tanto i ragazzi, ma supportare il settore turismo che è trainante in Italia, non è stupido come idea. Però la finalità dell'iniziativa non è quella di aiutare i ragazzi. Per esempio, anche interrompere nel periodo invernale, allora consente il turismo quello sciistico. Infatti, hai ragione, qualcuno come provocazione prima l'ha detto. La prima industria, una delle prime industrie in Italia, non è che dobbiamo neanche adesso sotterrarlo al turismo, anzi. Ma no, però allora è preferibile creare della sottocultura per favorire poi il turismo. No, adesso non mettiamola così, si può crescere acculturati e preservare il turismo. Tutto sto casino perché in Italia c'è il mare, porca miseria, si poteva fare un posto senza mare, senza montagne. La parola acculturati è proprio una cosa che non si può sentire, altro che divisivi, acculturato. Lo sprezzo nei confronti della cultura. No, io ho detto questo, non mi piace, No, vabbè, forse ho usato un vocabolo errato. Ma che scherzo, ce l'avevo col mio collega, è una collega tra noi, per carità. Figurati. No, se la tratta male, però, tratta male solo me. Ci mancherebbe. Ritengo che lo scopo della scuola è quello di creare istruzione. Va bene. E creare le condizioni migliori per istruire i ragazzi e farli crescere. Sì, certo, lei dice la scuola non deve badare al rilancio del turismo. Il turismo ci badino. Allora perché non si parla di ridurre gli orari di lavoro, così potremo andare più in turismo? Franco giustamente dice fate, che ne so, un ministero del turismo, fate delle politiche per sostenere il turismo, ma non lasciando è che ci deve fuori i ragazzini che devono andare a scuola. Detto questo, Franco, hai detto questo e ce l'avevo da 2 ore. Volevamo ringraziarla per aver mandato da Macerata e provincia, da San Severino Marche, Bonaventura a salvare le vicende di Alessandro. Ecco, è l'unica cosa di vero che ti serve, che è rimediato. Bonaventura questa Oggi è rimediato solo questa rubrica. Come come mai è andata così, crollando precipitosamente? No, ma adesso la recuperiamo. No, perché non ti tu che dovresti sponsorizzarla per farmi, capito, il poliziotto buono. Allora sponsorizziamola. Ricordate sempre che se volete mandare a Veronica qualcosa, offrire, c'è la rubrica A Verò che te serve, sempre al 349-238-6666. No, potete mandare audio, no, no, no, A Verò che te serve. Non c'è nessun entusiasmo, lo stai dicendo proprio. Se volete mandare, fate un po' come volete. Ma che cos'è questa cosa? Controvoglia, amici. Si vede che lo fa controvoglia senza essere convinto. Ma no, ma perché tu poi generosamente ripartisci tra i funamboli. Certo, ma se non ci metti più entusiasmo non famo più 50-50, abbi pazienza. Sono già sceso a 30-70. Va bene, dai, c'è adesso un'altra rubrica, era per questo, perché sennò depotenziavamo la rubrica somma, che non è la polemica somma sterile, ma è quest'altra rubrica. Defurbizziamoci. No. Questa, pensa che l'altro giorno anche una persona mi ha detto, ascoltavo, defurbizziamoci, bellissima. E tutti, ha detto, e tutti, ha detto bellissima, sei sicuro di quello che non sentito, la sigla sì. Non la sigla, no, no, la rubrica. E diceva, e raccontano, si ricordano, ah, il furbo che mi piace di più è questo furbo. Chissà se è Alberto il furbo che piace di più. Sentiamo un po', Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Eccoci. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che anche hai fatto, Alberto? Caro Alberto, allora, nel 1912... Sì. Ma allora, di preciso era l'anno del triplete, ahimè, forse i milanisti lo ricordano ancora. Così, l'anno in cui... Aspetta un attimo. L'anno del triplete, Veronica, cosa vuol dire? Ti ricordi che nacque così tutto il nostro amore, Milan? Ti ricordi? L'anno in cui l'Inter con Mourinho ha vinto tutto. Guarda come mi faccio cacciare. Quando io lo scambiai per cosa il triplete? Dillo sì, davanti una a roba tutti. Sessuale, credo. Allora, Alberto, milanista. Quella che si chiama threesome. Ma ecco, semplicemente io da buon milanista ho fatto di tutto per essere presente allo stadio, solo che come i biglietti erano introvabili, insomma. Ma perché non si trova. Un milanista, in che senso? Speravo, insomma, che gufavi. Bravo Alberto, bravo. Ricordati la semifinale, quindi, di Champions, sì, era col Barcellona. Sì, Barcellona. Tra l'altro Barcellona arrivava in pullman quella serata, perché un vulcano in Irlanda aveva eruttato. Sì. Quindi, insomma, non c'erano tutte le premesse. Beh, per farla breve, non avevo il biglietto. Mi sono presentato allo stadio. Mio fratello l'aveva, però, perché da interista aveva il biglietto originale. Me lo sono fatto passare attraverso il cancello di San Siro. Ma come? Già usato? Già usato, già obliterato, quindi... E praticamente con la faccia tosta mi sono presentato al tornello, ecco. E come il tornello riconosce elettronicamente? Sì, allora, in primo momento l'ha detto la sicurezza, mi ha allontanato, mi ha detto no, questo biglietto è già stato usato, arrivederci, insomma, quindi... Non avevo molta speranza di entrare, però dopo ho notato un tornello in cui praticamente non c'era il controllo esterno e ho rifatto la coda, insomma, da gnorri mi sono presentato al tornello e gli è andata bene. E ho inserito il biglietto, solo che la luce era rossa e non è diventata verde, insomma, è rimasta rossa, quindi ho bloccato il tornello. Mancavano 5 minuti all'inizio della partita, quindi... ho alzato anche un vespaio di irritazione. Ah, cioè ti sei anche, ma com'è possibile? Ho comprato il biglietto con tutto quello che è costato. Il ragazzo dietro di me mi fa, dai, stringiti, stringiamoci. Ho detto, ah, va bene, insomma, mi sono stretto semplicemente. E siete passati in due. Col suo biglietto il tornello ci ha sputato dentro lo stadio. No, quindi... ha preso gli altri per esasperazione, gli altri che erano sì, in coda. Quindi mancavano veramente pochi minuti. Sputato mi ricordo... dentro lo stadio, la definizione definitiva è stato il tornello, quindi, in realtà è stato il tornello che, ma certo, io non ho fatto niente. Non no, tra l'altro mi ricordo la PAC, anche perché ho detto, guarda, sono in debito, ti voglio offrire una birra, però no, tranquillo, tra interisti non ci sono problemi. E tu sì, tra interisti. Detto, grazie. Vabbè. E poi niente, mi sono avvicinato all'ingresso del primo anello e faccio, senta, ma qua posso salire? Prego, vada, è il settore giusto, ecco, quindi... Primo anello blu senza pagare un euro. Però sei stato in piedi o sei riuscito a sederti? Certo. Stato in piedi. Seduto di fianco mio fratello. Ma come non di fianco? Non nessuno è, tutto è venuto a chiedere il posto, quindi ho detto vabbè, io mi siedo, poi arriverà qualcuno. E invece niente. Ma che peccato, è stata una serata perfetta, peccato. Poteva andare meglio. Peccato però per la vittoria dell'Inter. Chi segnò? Milito, se non ricordo male. Ma io mi sono fermato al primo gol del Barcellona. Milito, Milito. Segnò anche in finale. Mannaggia, Alberto. Guarda, tu da fratello a fratello, ti diamo veramente la sigla. Io ci ho provato, no, ho ci hai provato, hai anche gufato. Guarda, io ti stimo tantissimo. Lui ha dato il messaggio che nello stadio basta mettersi dove non c'è il controllo umano ai tornelli e riesci a passare perché ti sputano dentro. Esattamente. Avevo lo scrupolo se raccontarla o no questa storia. No, però. Anche perché da domenica noi ti i tornelli di San Siro. Quello sputato dai tornelli sarà la fine dell'anno, capito? Dentro. Ma ti ricordi quello sputato? Ricordate che non va assolutamente fatto. Noi chiamiamo le persone perché poi le defurbizziamo. Defurbizzato. Non rendere tutto peggio di come già, per favore. Vi ricordate quel vulcano? Io me lo ricordo, c'era la disperazione di tutti a citarne il nome. Era il vulcano Eyjafjallajökull. No, e Eyjafjallajökull è una, no, è una settimana che evidente, guarda come gli piace, no, di dirmi, giuro, non ho capito. Eyjafjallajökull l'ho anche appeso sulla mia scrivania, lì ma come sei bravo, vai, ridicelo, perché c'erano tutti i conduttori televisivi di mezza Europa per il vulcano islandese Eyjafjallajökull, che poi erano fatto un seminario intensivo in cui facevate solo questo. Ricordiamo sempre che il Milan ha vinto 7 Champions League e l'Inter no. Ma Sacchiappa dopo aver detto il nome del vulcano? Cosa vuol dire? No, non Sacchiappa, no, però, vai, ridimmelo, scusa. Però te ne bulli con gli amici. Donne, sentite com'è sexy, sembra giapponese più che altro. Ridicelo ancora un'ultima volta. Eyjafjallajökull. Ah, com'è sexy. I funamboli. Siamo qui, Veronica, l'hai chiamato prima inconsapevolmente ed è arrivato il nostro psicologo preferito. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio 24. Che ci fanno meno notare. Male che è venuto, che sotto Natale abbiamo tutti bisogno di lei, che ci spieghi un po'. No, tra l'altro fa notare in molti che assomiglia un po' a Papa Francesco lei con questa cadenza. Ma la mia origine è diversa da quella del Papa Francesco. Certo. Papa Francesco è argentino, io non sono argentino. Lei di dov'è, dottore? Carugate, qui vicino a Milano, Carugate. Questa pronuncia un po' vagamente esotica, cara esotica. Veronica. Ma sento. Questo Veronica avevi ragione perché è un periodo difficile, no? È difficile. Per il periodo natalizio, in famiglia e tante tensioni anche per i regali. Io sono anche padre di famiglia e so perfettamente che essere padre famiglia è complicato. Perciò, cara Veronica, Alessandro e amici, la prima cosa da fare è mettere delle regole per i figli. Certo. Ogni mattina io a colazione a mio figlio do delle regole. Mio figlio ha 12 anni, mio figlio, dico a scuola e studia, è il modo migliore di litigare solo con quelli più piccoli di te. No. Altrimenti se litighi con quelli più grandi poi ti fai male e sabato non ti posso portare al centro commerciale. Ma no. Invece se picchi qualcuno più piccolo e vinci anche la lotta, sabato ti prendo 5 giochi sparatutto per la PlayStation. Ma no, è terribile. Ma no, dottore. Ascolta, le prescrizioni, non sindacare. Picchiare, ha detto. Solo quelli più piccoli, non quelli più grandi che te fai male. Prendi quelli più piccoli, dai delle botte, io poi ti regalo giochi sparatutto. E non si possono difendere. Invece a mia figlia che ha 18 anni dico... Figlia mia di 18 anni, vai a letto solo con quelli ricchi, ma più ricchi di te, molto più ricchi. Un imprenditore, un calciatore, meglio ancora se famosi. E in quei casi prendi le tue precauzioni. Vai a letto. Ricordati sempre di usare la telecamera. Più ricchi. Telecamera, ma usare dai! Altrimenti quando lo racconti alle amiche non ci credono e devi avere delle prove, così puoi andare sui giornali dei gossip a raccontarlo, diventi famosa. Ma che valori dà lei? È inutile fingere, caro Alessandro, il mondo va così. Ai figli bisogna dire la verità, e questo è il messaggio che voglio dare, bisogna dire le cose come stanno, altrimenti passano tutta la vita a credere alle favole. Alle favole non crede neanche più Cappuccetto Rosso. Io e miei figli da bambini le raccontavo la favola del Cappuccetto Rosso, ma cambiavo il finale. Raccontavo che alla fine il cacciatore salva la nonna solo per prendersi la sua eredità. Questa è la verità della questione. Non è proprio così. Anche se io do questa buona educazione ai miei figli, ne capita sempre qualcuno. Settimana scorsa mio figlio ha preso una nota sul diario perché ha litigato con un bambino extracomunitario della sua classe e la professoressa gli ha messo una nota sul diario e la professoressa non ha capito niente. Non ha capito che l'unico modo per favorire integrazione è picchiarsi. Ma come? Perché prima ti si picchia. Aiuta. E poi si va insieme al pronto soccorso. Certo. E questo è il modo migliore di integrarsi, darsi delle botte, litigare pesantemente, crearsi dei lividi sulla faccia. È bello. E poi quando sei sul lettino del pronto soccorso fai amicizia. Si comincia con una bella litigata, poi si fa amicizia. E in più, quando la professoressa ha visto il diario e ha fatto togliere la foto dal diario mio figlio de Belen Rodriguez, seminuda, che avevo attaccato io, così almeno si fa un'idea del tipo di donna che deve cercare. Non intellettuale, di quelle che creano problemi, come la Veronica che anche sta a puntualizzare, e no, sempre rapporto complicato, migliaia di parole su parole, fiumi di parole. Non devi solo fare queste cose, devi solo stare bene. Stare bene. Non stare con la Veronica per stare bene. Non stai bene con donne intellettuali. Vabbè, e ti riempie di parole, parole, parole. Devi spendere soldi, meglio che spendi donna. Non devi spendere soldi in cultura, spendi soldi per rifarti il seno, una bella quarta, quinta del reggiseno, no libri. La cultura resta nel cervello e non la vede nessuno. E se non lo vedono tutti e fai carriera senza stare a polemizzare di ogni due parole, a puntualizzare come fa Veronica. Va bene. Oggi mi sembra che questo rapporto è un po' da... Professore, ci vuole dire qualcos'altro? Sì. No, io concludo qui. E bisogna solo dire ai figli come comportarsi e dire com'è la verità della vita. Sì. E questo è il mio modo, accettare completamente l'omologazione della società. Questo è l'unico modo per stare bene. Ovviamente non seguite nulla, cari ascoltatori, nulla, cari genitori. Guarda, io mi sa che dall'anno nuovo inizio ad andare proprio in terapia, sì, un paio di volte a settimana. Sì, ma ti consiglio io qualcun altro. Daniela da Roma, buongiorno. Daniela. Buongiorno, sì. Buongiorno. Daniela. Sì. Come andiamo? Bene, grazie. La cosa molto semplice che volevo dire e che noi ci limitiamo purtroppo a guardare soltanto quello che interessa l'Italia in ogni suo piccolo settore, e la globalizzazione la riserviamo soltanto per altri temi, per il commercio, sulla scuola lei vuole dire. Invece per la scuola i nostri figli si troveranno ad affrontare ragazzi, per esempio come in Cina, che hanno, studiano in maniera veramente pesante, e invece noi siamo sempre molto accondiscendenti, li proteggiamo sempre. Brava, no, sono commosso. Abbiamo Daniela. Sempre delle scuse pronte per dire povero figlio mio. Brava, ma è che poi io sono così, io poi sono così, Daniela. Dico brava, ma lo dico a me stesso. Il medico pietoso fa la piaga purulenta, però detta. Daniela dice brava, noi sempre così nella bambagia, e invece arrivano quelli che studiano e ci fanno un mazzo così. Perché siamo pieni di sensi di colpa noi genitori. Però ce lo fanno e noi abbronzati, vuoi mettere? Con l'inno del Milan che è tornato alla vittoria, parte la remontada e ci troviamo domani. Eccolo che è impazzito, datti una calmata che domenica prossima vedrai il club letterario. Cross di Borini, Bonaventura, rete, ha raddoppiato il Milan, ancora Jack Bonaventura.